fiore, dammi qualcosa. Signore, ho tanta fame. Dicevano i suoi occhi, ma nessuno l'ascoltava. Nessuno l'ascoltava. 12 anni che sembrano una vita. 12 anni che sembrano già tanti. Ma la tua vita non sorridi mai nelle strade di Calcutta. Ma la tua vita non sorridi mai nelle strade di Calcutta. E sei ancora lì, a quell'angolo di strada, nella tua disperazione, nella tua rassegnazione, sperando che qualcuno ti possa vedere, sperando che qualcuno ti voglia salvare. E sei volata via come una farfalla. Che dura solo un giorno, sempre troppo presto. Ma la tua vita non sorridi mai nelle strade di Calcutta. Ma la tua vita non sorridi mai nelle strade di Calcutta. Ma la tua vita non sorridi mai nelle strade di Calcutta.